Cool. Ah, tempo, briciola. Rigido. Ehi, briciolino. E allora, cosa mi racconta? Ehi, adesso è andato attraverso la letto e adesso andiamo di offrire a lavorare. Cazzo, ti hai pigliato una brutta malattia come quella che ho preso io, mi. Cosa devo fare, Natalia? Così, io devo, cazzo, che ho fatto 14 ore a più mai salto in mezzo alla strada, ieri notte. Non si vede a manco i faretti che hanno messo dell'illuminazione della strada. Assolutamente no. Brutto vizio hai preso. Il lavoro è un brutto vizio. Non va andare. Cazzo va andare. Sono stato ricco e tenente che mi mantenevano, allora era un altro discorso. Vabbè. È un casotto, era tarifa. Oggi sono a poco dove c'è Cermelli. Non scappa. Aspetta un attimo che spengo il televisore, se non disturba qua. Sto qua, tutto fatto. Tutto a posto, da mettere a posto. Cazzucci, tutto romanzano, acconsendi l'alzacristalli della macchina. Si è cribato un motorino, cazzo, un casotto. Cazzo, la tua cos'è? 5 volte la tua. Come mai, Natali? Era andato a aprire, Emanuele. Sì, 5 porte la mia, E io adesso forse la cambio. Forse interessa uno, la mia. Mi prendo forse una Fiat Idea. Le multijet, va benissimo come motori, diesel. E infatti. Anche la mia è diesel, 1.900 turbo diesel, la mia è. La mia è benzina, 1.200. Però è insomma, con bassi consumi. Posso cambiare anche da un bel chilometro, cazzo, 240 miglia. E poi la cinque e così. L'ho fatto tutto, ammortizzatori. Poi sai che non l'ho trovato, se ne hai. Io ho capito. E la mia chilometri ne ha pochi perché non la stavo usando, capito? E quindi praticamente non ha chilometri baghissimo. No, diesel ci vuole per te, per il lavoro che fai tu vuole diesel. Io me ne dimenticheggio di Buninna fatta. Adesso appena è, adesso vediamo. Per agosto, un anno nuovo, se riesco. Infatti. Ma mi devo fare un po' come devo preparare, se devo uscire dall'alle 5:30. In che mezzo devi uscire? Ragazzi, dalle 6, dalle 18 alle 7 del mattino, oggi. Io ho capito. E quasi la gioco in. Sono in corso, per box, c'è la corrente, ma ricordo il visore. Quanto l'ha il televisore per la macchina, Manuele? No, non ho trovato quelli alla scendisiga, nulla. Ma ci sono, ma che ne so io? Dovresti controllare in quei negozi che vendono elettrodomestici e gli dici che ti serve 12 volte. Sì, di quelli, ma di quelli che hanno già il decore, che puoi vedere la TV, capito? I canali normali. Anche a quello telefono si è passato a guardare, non va bene, a questo magico non va bene. Infatti. E così la carina, la vita è fatta per soffrire, solo per soffrire, e basta. Sì, lo so, lo so. Io stamattina non ne potevo più, cazzo. Ravigni non vi siamo riusciti a chi ci ha mangiato tutta la cosa il motorino, mi. Il motorino era buono ma gliel'ho lasciato lo stesso a chi intanto si aveva mangiato la cordicella e quindi ho comprato il motorino e il coso tutto completo dal ferro vecchio nuovo cazzo. ha giubilato e te l'avevamo piazzato, è franco, via. Adesso hai un bijou. E dove l'hai preso? La Marcidu. Ah. Sì, sì, no. Cazzo, a comprare il autoricambi, che santo mi cucciava tutto il subito. Sì, già lo so, se deve fare il baga. Sì, uno sarei con un bevaro, non me la viene fatto pagare. Io sono andato da Marcello, siccome lo conosceva a Franco, me l'ha lasciato anche a buon prezzo, capito? Si è andato a comprare lui santo, guccia, no? Lo so, lo fa pagare minimo qui di 150 euro, un peso del genere. Lo so, io l'ho pagato molto meno. Vabbè, dai, Natale, ci sentiamo casomai domani, se sono di riposo. Vediamo qua, non so, i turni che fanno domani. Ci sentiamo, Natale, che mi preparo la roba per portare via. Ma anda bene, Meda. Ma io a fare il cincin. Cosa c'hai, Emanuele? Una 92, 98, così è. E cosa? Una pistola, perché io c'ho un caricatore per quella pistola lì. Per la beretta. 9 per 21, non va bene. Ehi, a 9 per 21 è il caricatore che c'ho io. Non avrei dovuto fare. 15 colpi. Ehi, a. E allora va bene. Ce l'ho. Però per la mia non va bene, perché io ho la Glock, vabbè, io ho caricatori, ne ho 4. Ma la Glock ti è preso tu? Ce l'ho da un bel di tempo, solo che non sto più andando a sparare perché non posso camminare. Io ho la Glock 17, è leggerissima e poi è precisa. Lo so, io adesso siccome adesso devono rinnovarmi la di la Glock, e costa molto meno ed è leggerissima. Quella di Emilio pesa bombe è come la beretta, quella che c'è da Emilio. Ma è la bella, però è la bella. Vabbè, adesso vediamo, in caso è vediamo un po' come è di tirare ora a compararla, ma non che non ti danno l'odo l'anticipo per prenderla. Se no devo aspettare a prendermela io. E ho capito, Manuel. Vedremo la sua. Però quella di Emilio è pesante e costa un bel. Quella di Emilio gustava, una cisetta era. E la venduta, insomma, 800 euro. E a chi costa un bel, sì. Invece la Glock cosa gusta? Non costa nulla. Quel prezzo la figli nuova, di quinta generazione, la mia è la migliore, che è la terza generazione, ed è spettacolare quella lì. Lo so, adesso vediamo un po', perché adesso dobbiamo fare anche guardia armata, secondo dove andiamo, e ci vuole guardia armata, non puoi andare senza a fare servizio senza niente. A parte il servizio che stiamo già facendo, devi essere già armato, però mettono come cantonamento portierato, ma non è portierato, perché non è portierato. Il lavoro che stiamo facendo si tratta già di notturno, guardia notturna. Sì, infatti non andava bene, no? Senza niente non andava bene. Aspetta, dimmi, c'è anche due o tre, o già che se vai, o già la Bilafonte di cura. E infatti. Vabbè, dai, Natalia, ci sentiamo, là. Buona continuazione, che ho preparato le cose, poi 5:30 ci esco da casa. E ok, va bene, buon trabacco, buon tutto per stanotte. Alle prossime, Manuè. Cos'è lui? chiesa, non si è andato. Ma che cazzo faccio? Se devo andare a lavoro, ma poi se ho bisogno di andare, no, non mi fa niente, quante volte andare in chiesa. Che già così. E c'è adesso i fiori, già finito da un po'. Là. Andato sì. No, vero? Chi è che è andato? Subito da qua io. Ah, si vedeva. Sì, sì. Ma non c'era tanta gente. Sì, vabbè, c'era gente di famiglia, so. Infatti. Vabbè, no, non sono andato, se no, a parte che mi prende male, perché mi prende male, la conosco già quando ero bambino, figurati. E quindi no, non mi piace andare a queste cose qua, mi viene questa tristezza addosso, già con la vita che facciamo, per carità. Nel giornale c'è scritto 96, caspita. Ah? Nel giornale c'è scritto 96. 96 anni, sì. Però quanto era che stava male già? In 2-3 anni di più. Allora, fino al 94 anni camminava, parlava tranquilla, e quando è iniziata il 95 iniziava già a non reggersi con le gambe, qui e là, e poi era caduta mi sembra, era scivolata ed è stata a letto, da lì non si è più alzata a letto, era sempre allettata. E un anno là, capita. Così è. Poi ha iniziato a mettere l'ossigeno, come diceva la mamma, metteva anche l'ossigeno e prendere anche da lì tagli a baggio. Non fumava neanche, signor Lucia, beh. Ah, non ha mai fumato. Dico, nonostante tua madre che fumava. Sì, ma neanche mia madre fumava lui sigaretta da lì, non è che fumava tanto. Purtroppo, signoria. Mia madre aveva problemi ai polmoni, anche per quello, era conciata mia madre. E poi danno la colpa alla sigaretta. Sì, la sigaretta. Sempre chi guardiamo. Infatti. Bubu. Sì che c'è Natalina, dai, che mi assento io. No, non entra Natalina. Ma sono qua, cosa cazzo non entra? Mi sei maniaco. E tu cosa? Ehi, tu dici a Emanuele che è maniaco, ma a me mi sembra che sei tu che vai a cercare le vecchiette con le calze rotte. Ma stamattina tu eri con la muta lì al mare, Natale. Sì, a chi vicio mai? Infatti, guarda eri tu, bel carniere di pesce, bravo, bella pesca. Ma che non ero io. Ti chiedi raccontare un motorino di Alza Cristalli che mi si è rotto nella macchina, cazzo, l'ho dovuto comprare nuovo. Si è mangiato una gordicella, cazzo, mi ci dà la guida e ha fatto un casino. Che parola? Ma lei davanti? Lì ho il portello davanti, quello mio. E quello lo devo aprire per forza per entrare nel parcheggio. Ah, sì. Cazzo, oggi si vuole fare a Platamona, oggi non avete dato la mano, mi si varo. Ma non manco ripiro a rimare, invece mi... Tutto romanzano, cazzo, combattenti, con questo sportello, io. Tutto di montato, ragazzi. Cosa, Luca? Dove ti sei messo a farlo? Sotto casa di Franco. Abbiamo fatto io e Franco. No, chi sono ammaiato noi? Io mando un messaggio di fatto buio, dove mai ti rispondi? Bubu. Io non mi ricordo manco quando lo telefoneggio, perché quando lo telefono deve essere che non piglia il telefono e mi esce sempre la segreteria telefonica. No, te lo visualizzo quelli che li mando, ma non rispondi. Se fosse domande non rispondi, li visualizzo ma non rispondi. Io il telefono, per esempio, questi messaggi non li guardo, quando sono a casa solo, perché c'ho WhatsApp nel coso, nel computer, e me lo guardo dal computer, capito? C'era Giulio. Con Giulio. Giulio stavi parlando. E io purtroppo non c'ero stamattina, chi ero venuto a Travaglio, ma dimmi due. Con il maiocco di Marco. Non ho capito, cosa hai detto? Con il maiocco di Marco. Boh, sarà dormito. Sì, perché la mattina presto anche lui va, si affattola. Capito? Vuole le massaie nude. Ah, lui si affattola va. E allora? Una piazza di Italia, l'altra la piazza Torre Pulini, la piazza dei Segni. Ah, ma che andiamo a fare una pizza? Sì, sta cucendo le carte a rete, sta cucendo adesso. Attenta, Marcolino Condo, ci sei? Non risponde, no, quello è dormito, è dormito quel Marcolino Condo. A Trento, Marcolino Condo, a ci sei? Marcolino Condo! Non risponde, no, quel maniaco. È un maniaco questo Marcolino Condo. Ah, sta smontando la scheda del 2009 per darla a te, capito? Che cazzo, e mi smonta la scheda, fa prima darmi il 2009, l'altri. Ma quella soddisfazione non te la vuole dare, scusa. Ma solo la scheda mi dà. Lui ci ha fatto in tempo arrivi e mi sembra radurato un gatto, io sono impazzava di più. Dimmi tu. Hai visto? Sembra fatto apposta. Hai visto? Allora mi compa giochino perché qui, perché là. Il studente su, era giroso. Si è offeso brutto cacchio. Capita, adesso la propagazione, non sai dove te la fai? Adesso parli con muro. Vai, vai 45, vai, domani. Adesso parli con muro. Poi mangi anche il brodino di mamma, mi ha detto. Non sta per questa posizione. Due piatti. Ho fatto schiattare quell'apparecchio. Beh, ma ancora non hai. Non te l'ha aggiustato, non te l'ho aggiustato. Ce l'ha Adriano. Ce l'ha. Sta vedendo un po' la situazione. Del dolore indicibile e recuperato. Cosa vuoi ti dica? Familiari, poco della reazione del popolo italiano. Era tutto martoriato quell'apparecchio. Cazzo, ma ne cuccio una drupa. Che sto ancora piangendo, pure le lacrime me ne stanno accendendo. Ma cosa ti hanno detto il negoziante? Non gli ho detto niente al negoziante, cosa gli dirà un negoziante? Magari era inconsapevole pure lui, quello è un apparecchio che gli hanno restituito sicuramente. Se me l'ha venduto per nuovo. Era nuovo, l'apparecchio è nuovo, no, c'ha ancora il nylon sopra i coperchi, no? Io non l'ho tolto, l'ho lasciato il nylon. Cazzo, era nuovo nuovo, senza ducca, Brento e l'hanno educato, ma raggiunto. No, una cosa deve durare anni, abbiamo che la compagnia di Genova. Invece la cosa deve durare due cose invece che non si ruba. Ma è vero, mi guardi, sto dicendo. Una notte segnata da nuovi bombardamenti russi. Sono dispiaciuto veramente per quell'apparecchio. L'hanno toccato, c'era dove tu attacchi i fili della colonnina, quella presa era staccata, le piste erano messe male, infatti mi ha fatto due ponticelli, no? Per collegare la presa alle piste rovinate. Chissà che cazzo era toccato. Più c'era la scheda che non era giusta negli incassi sui. Era storta, amico. Era fuori dall'incasso suo sulla destra. Ma bisogna vedere, quelle piste si sono bruciate, vuol dire che passava, cioè c'è da controllare come mai si sono bruciate, se no si dovranno bruciare la buca. E infatti sta controllando tutto. Sta controllando tutto Adriano. c'era, nell'alimentazione non c'è un diodo lì. Beh, quel diodo non era il suo, perché Adriano li conosce come le sue tasche, quegli apparecchi. E tu dici un numero suo, già vedi. Ma dico, tutti i difetti me li ha fatti vedere Adriano. Io non me ne ero manco accorto che c'era la scheda storta. Ora, ora, ora, ora, breve. Ora attenzione, canale 10, la Mezzia Terme. Cosa, Luca? Ora ti sentiamo, avanti, avanti, avanti che fischia. Io non sento nessuno. Sì, arrivo a 7. Attenzione sul 10, 2 stelle. Io avanti, avanti sul 10. Si sente qualcuno, però non so, non rispondo. L'ho sentito anch'io, avanti sul 10, QSL, solo che non risponde quando l'ha chiamato tu. Ho aperto lo squelch io per poterlo sentire. Avanti l'amico che chiama sul 10, adesso non l'ho sentito bene io perché ho troppo QRM. Ha risposto adesso lui, sentito like. Ma se non rispondo. Forse è dalla Puglia che stava chiamando. Avanti l'amico, si può entrare. Ma ti ha facendo il radio? Sì, hai a 600 lui. Non c'è dentro anche il filtro, io lo ascolto bene, benissimo. Però ma palla. Forse non ci sente bene. Qua arrivava basso basso del radio. Ma che vuoi che ti dica? Io ho messo attorno allo squelch io tanto, se non si intende di lubrigitori. Marcolino Condo, a chi sei? Comunque c'è la propagazione. Insomma ti hanno mandato il video, l'hai visto? No, non l'ho visto. Perlomeno non è arrivato nulla. Io devo capire, ma come fai? No, non è arrivato. Io ero fuori così con il ricevitore, con l'R2000 e il magnetico. Ma si ricorda anche questa però. Non ho guardato io lì. Ho visto bello quel ricevitore. Mi manca il condensatore variabile per poterlo fare. No, io. Sai che vado a vedere? Già arrivo, c'è la Spagna, c'era lì. E lì non ci posso andare, non ne ho più di quello. L'ho restituito, capito. Quella lì non la posso più ascoltare, solo quello piccolino. Ecco, ecco, non ho capito. Quello che mi hai dato tu. Beh, perché non puoi ascoltare? No, già lo posso ascoltare con quello piccolino. Quell'apparecchio che avevo prima non ce l'ho più. Il 440 è in riparazione, lo stesso. Sono messo molto, ma molto male. Perché non stavo più ascoltando nulla, quindi me l'ho venduto attorno. No, è quello piccolino. Io ti avevo mandato il video, è una cannonata. C'è anche i filtri, che si ascolta benissimo, benissimo. Solamente c'è un'antenna esterna, è meglio. Ce l'ho l'antenna esterna, è staccato dall'antenna esterna. E lì su come soprammobile, e non aiutano a attaccarla. Tanto non me ne sbatte nulla di ascoltare. Capito, non sto più ascoltando nulla. C'ho anche il ricevitore per su e non ne sto ascoltando neanche. Non mi interessa più, guarda. Lui già a Ciarinò che andava giù dentro e buco. Sì, io mi sta prima dopo per me nessuno, per dire, e se mi voglia domani me l'attacco, me lo metto qua e cerco di attaccarla a vedere. Ma ma non ne ho tanta voglia, no? Scusa, c'è quella verticale veicolare. Cazzo, una buona curiosità, no? Ma ti non sentivo fuori. Perché bisogna fargli una staffa a me per poterla mettere. Perché è a vitatura quello stilo lì. Si avvita al piede mi. Quindi lo posso attaccare solo facendogli una staffa e un barilotto. Gli attacco un barilotto lì e poi gli attacco il PL. Vabbè, cosa vuoi fare una staffa? Scusa, fammi un disegno, mandami un disegno e come vuole sta staffa. Una staffa a palo palo ci vuole, mio, da te ci voglia. In modo che stringo il PL e poi stringo dall'altra parte, dove c'è l'attacco al palo dell'antenna stesso. E come, da una parte attacchi al PL il collare, dall'altra al palo, giusto? Eia! E perché al PL, scusa, non c'è un posto dove attaccarla? Proprio al PL la devi attaccare. Mi metto un barilotto attaccato al PL, quella lì ce l'abito al barilotto e così è tranquilla, la posso togliere quando voglio. Come faccio? Se no tocca fare un attacco a PL, tocca fare, capito? È una staffa per attaccare al palo. Sempre l'attacco a PL ci vuole, no? Mandami un piccolo video di come ce l'hai l'attacco nell'antenna, un'altra lì. Così vedo di fare una staffa. Io collari già ne ho. Quei collarini, capito? Te li salgo una staffa, mi dici la lunghezza, da una parte te la faccio grande, per in base al palo che hai, mi devi dire la misura del palo che hai, della televisione dove la puoi mettere. Però mandami la foto, il video dell'altra parte dove la vuoi attaccare, così faccio il collare di quella misura. Allora, l'attacco dell'antenna è a PL maschio, come la Diamond, quella bibanda che si avvita, così si avvita anche quella, è fatta così, e poi una normale staffa, gli attacchi, la staffa la devi fare palo palo, di quelle che c'è, ma la fare con due viti e la stringi, molto ci vuole. Solo che una vuole più piccola per attaccarla al PL, quindi la vuoi attaccare, e l'altra vuole più grande per attaccarla al palo, il collare. E infatti, vuole proprio così. Non c'è un problema. Chi è? Marcolino, tu sei? Marcolino? Guarda, ti ho mandato il video per farmi capire, cazzo, se non mi vuoi mandare neanche il video di questa antenna, di come t'è fatta, io te lo mandare il video. Come faccio a mandarti il video, cazzo? Se sei smontata e lì dietro, abbandonata. Cazzo, è dentro la busta. L'attacco a PLA. Aspetta, guardo il coso, la situazione. Sentiamo che dalla città abbandonata, boh, e basta. Ma devo fare la staffa, me la devi mandare a foto, un video, di come te la vuoi, boh. Ma qui devi andare a Roma a comprare, la fedi. Vuole uno grande e uno piccolo per agganciare la larghezza del PL, mi. E là sul barubaru, come ce l'hai fatta tu, praticamente. La parte però dove c'è l'antenna, quello sapore lì, come deve essere, perché se magari tu tocca il fondo dell'antenna, la staffa, io non lo so. La parte sì, perché lì attacchi al palo, ma dalla parte dell'antenna bisogna in quanto è libero quel pezzo, in modo che la staffa poi non vada a toccare, a dare fastidio all'antenna, alla parte dell'antenna. Non so come spiegartelo. Milano, quando c'è stata la prima lacrimazione, sempre detto dipende. Volevo un mezzo metro, vuole lungo il coso. E poi che avvicini al palo e all'antenna. Ecco come si può. Io la vi un gatto, la giuranfa di tutti. Ma quest'antenna tu ce l'hai a casa o devi andare a comprarla ancora? No, ce l'ho a casa l'antenna. L'antenna ce l'ho a casa. Certo, mandami una foto di come è fatta questa cavolo di antenna, così so come fare una tariffa. No, una tariffa. Pensavo che dovevi andare a comprarla. No, che ce l'ho, ce l'ha anche coso quell'antenna lì, multibanda. Ce l'ha anche Marcolino, ce l'ha. Ha detto ma ti cazzo diciamo, lui ci tira mai di su internet. È inutile perché qua mica devo gravata non di che è un casino in ovvio. È dentro la sua busta, è come una diamond di quelle bibanda. L'attacco. Cioè l'attacco PL maschio. Da presenza diciamo così demoniaca. E va attaccato a un PL femmina. Per quello c'è il barilotto, gli metto il barilotto all'antenna e poi gli attacco il PL e quindi già risulta un bel pezzo da poter agganciare all'antenna. Sì, ma il fatto che vuoi agganciare il PL al collare della staffa, io non ho capito questa. Non capito. Perché non l'hai capito? Come cavolo fai a agganciarlo allora? Appunto, adesso, se non mi mandi la foto, come faccio a vedere come devo costruire la staffa? Capito? Vabbè, bisogna cavarnira che c'è il gatto di l'antenna, infatti la vedi come in te. Grazie. La devi fare per forza così. Lei scrive i messaggi, poi chiude l'accetta. Adesso me la tolgo domani e vediamo un po'. Perché qui dietro è messa un po' così. E viene male, bisogna cavarne tutti, no? Che va per cavarne i santenna. E poi basta che tu lo fai che blocchi un PL e c'è a dama. Così mi fai appunto dove vuoi metterla, capito? Quanto vuole grossa la staffa, quanto pesa l'antenna, tutte queste cose qua, questi piccoli dettagli. Si può fare una staffa da larghezza 3 cm, come che voglia 5, 4, blu, non lo so. Va bene, dai, già ti faccio sapere, faccio la fotografia del palo, così ti faccio vedere quanto è grosso il palo. Mare ed è una persona vicina a te. Ma sì, perché così vedo, se collare il saldo direttamente, capito? Così una volta saldati che è tutto di misura, un fatto che attaccarlo. Il collare già ce li ho, capito? Già noi devi collare a uno. Non facciamo per saldarli alla staffa. Però una volta c'ho tutto il video così mi rendo conto di tutto, va bene? Poi mando un messaggio a questo. Che devo scegliere per 2000. No, e fai fare. Poi hanno preso un altro negozio di Swarovski. No, già te l'ascolto, comunque sta imballando l'R2000 che ha fatto il pagamento il tipo, dai, così domani vedo di farlo partire. Ok, ya sono qui io, là. Ehi, manda come dia quelle foto. Cosa, lui? Intanto mandami quelle foto. Non ho capito un cavolo, stai uscendo tutto bombardato. Guarda, sto qua. Ora adesso è basso. Prova a vedere. Prova lui. Non stai uscendo. Così uscendo troppo abbassato. Adesso stai uscendo ma basso basso. Guarda adesso. Perché c'è troppo troppo e c'è una troppo forte. No, devi abbassare appena appena. È proprio questione di millesimi, guarda adesso. Adesso sì. Vedi come ho spostato che l'ho mosso. Evidentemente l'hai spostato. Ho detto, a mandarmi intanto quelle foto là, guarda che te ne ho mandato una sigla. Come faccio a mandarti quelle foto? Nelle bottiglie dell'antenna. Quella del fratello. Se no come faccio a mandarti le foto? Adesso non mi ricordo manco come si chiama, se no l'avresti vista via internet, quell'antenna. La X1 ha detto come ti cacchio è. Però X1 mi sembra che si chiami. Giulio. 10 cambiò.